www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli gli zombie occupano silenziosamente il terreno, Kappa e Drago cercano un modo di salvare il pulcino Joao. No, senti, non possiamo lasciarlo al suo destino. Ma certo che possiamo. Ma cosa vuoi dire? È che Joao è un pulcino come tutti gli altri. Non vedo perché per lui ti commuovi e ti sbatti, vai in sbattimento, e per gli altri 100.000 no. Ma perché Joao è amico di Tarek? Vabbè, anche questa cosa non mi convince. Cioè, Joao è nato da appena 3 giorni ed è già amico di Tarek. Ma che cosa è successo? Drago, è successo che appena uscito dall'uovo ha visto Tarek che passava di lì e così si è affezionato a lui. Sai, no? L'imprinting. Ah, beh, certo che bell'imprinting. Sì, e quindi adesso Tarek è la madre di Joao. Vabbè, come nelle telenovela brasiliane. Joao crede che Tarek, che è un maschio, sia sua madre. Però vabbè, in Brasile può anche darsi che succeda. Però in realtà è il cugino di suo zio da parte di nonna, il figlio di Joao. Così. È così, più o meno così. E sentiamo un po' come conti di salvarlo dalla morte certa che lo aspetta tra quanto? Tra ma che ora è? Oh mio Dio, è mezzanotte. Tra 34 giorni, 34 giorni esclusi sabato e domenica. Vabbè, quindi tra quanto? Il calcolo è semplice, no? Se ogni settimana ci sono 5 giorni lavorativi, quante settimane sono 34 giorni lavorativi? L'imprinting. La fabbrica di polli. Vieni, Drago, vieni. Chiediamo un consiglio al confessore elettrico della Cappella di San Gallo. Sì, lui ha sempre una risposta a tutto, quindi... Sì, però ci vuole il gettone e no, il gettone non ce l'abbiamo. Che gettone, gettone, Drago? Basta ponticellare il microinterruttore e... Che cosa? Ponticellare il microinterruttore. Ponticellare il microinterruttore. Ma sì, dovrebbe essere semplice. Dunque, aspetta un attimo. Ma no, dai. Aspetta, dovrebbe essere... Ma cosa stai facendo? Dai, lascia perdere. Sto ponticellando 2 pin sul chip per flashare l'Aplex V, no? Ah... Sì, però il problema è che il ponte sul chip deve essere fisso da D0 a D1, capito? Ma, sì, insomma, sì. E che gli facessi uno switch qui sul ponte, andrebbe bene. Però poi dovrei fare, non so, scegliere quale BIOS far partire. Drago, mi passi una chiave del 6? Sì, e dove la prendo? Ma come sarebbe? Ma secondo te io vado in giro con una cassetta degli attrezzi, eh? Non puoi fare senza la chiave del 6. Ma no, no, sennò il dado come lo tolgo senza la chiave del 6? Prova con questo. Ma è un martello. Già, un martello. E quindi tu vai in giro con un martello, però non hai la chiave del 6. Vabbè, il martello può servire anche ad altre cose. La chiave del 6 no, per questo è che vado in giro con un martello. Proviamo col martello. La chiave del 6. Aia. Aia. Aia. Salve, sono il confessionale elettrico della Cappella di San Gallo. Grazie per aver ponticellato il microinterruttore. In questo modo non è più necessario inserire il gettone sagomato di difficile reperibilità nella mia fessura sagomata per ottenere i miei servizi. Visto, Drago? Complimenti. Allora, fedele, confessa i tuoi peccati. A quale sfera del peccare hai indirizzato i tuoi desideri malsani? Hai staccato la spina a un malato terminale? Ma no! Hai desiderato in sogno di firmare un pax con il tuo compagno di ufficio? No, ma quale compagno? Quale ufficio? No, no, no! Hai usato sostanze proibite per aumentare la tua virilità? Ma no, no. In qualunque caso, il Signore è pronto ad accogliere il tuo sincero pentimento e a darti una bella assoluzione valida circa 24 ore. Dopodiché sarai di nuovo in difetto e dovrai riconfessarti elettricamente. No, no, padre elettrico, no, io non ho commesso peccati. Io sono qui in veste di buon samaritano. Sfira. Bene, figliolo, continua. Vede, io ho incontrato sulla mia strada un pulcino innocente, un piccolo pulcino, che crede che Tarek, che è un maschio, sia sua madre. Per via dell'imprinting succede, no? Sì. E dunque vorrei un consiglio su come salvarlo dalla morte qui in fabbrica, povero pulcino. Sfira. Ha capito, padre? Sfira. Padre? Se non hai peccati da confessare, io non ho risposte. Non sono mica un assistente sociale. La mia sfera di attività si limita ai peccati. Avanti un altro. Ma padre, lei rappresenta la Chiesa nella sua grande bontà. Non può voltare le spalle a un bisognoso come me. Fedele, appunto perché appartengo alla Chiesa, su un caso come quello del pulcino non ho alcun potere. Io posso assolverti se per sbaglio, o anche volontariamente, tu avessi pestato il pulcino sotto i tuoi piedi. Ma cosa me ne frega di salvare un pulcino? Sfera! Padre elettrico! Sfera. Ma quello che sta dicendo Sfera. È terribile! Sfera! Che ne so, io sono solo un congegno elettrico! Sfera! Avanti un altro, ormai sono botticellato e non mi spengo più. Sfera! Sfera! Questa musica elettronica. Oh, sfera! Sfera! Dammi la tua sfera! Utilizzo la tua sfera! Rendo inutilizzabile la tua sfera! Era! Sfera! Era! La fabbrica di polli. Joao, hai mangiato oggi? No? Bravo. E non fare quella faccia lì, eh? Ricordati che se non mangi non ingrassi. E se non ingrassi non ti ammazzano, eh? Quindi la soluzione, e qui mi tocca mio malgrado citare Dolce Gabbana, fai una dieta. Ma io ho fame. Bravo te. Mangia ingrassa e poi vedi cosa ti succede. Ma non hai ancora capito che qui l'unico modo che hai di scamparla è di rimanere piccolo, eh? Tu devi rimanere un pulcino. Devi ritardare il più possibile la tua trasformazione in adulto, eh? Ma ho fame. La fame te la devi tenere, eh? Tu immagina di essere una fotomodella. Hai presente quelle che sfilano sulla passerella che sembrano scheletri, no? I zombie? Ma no! Gli zombie sono un'altra cosa! Però, adesso che ci penso mi hai dato un'idea. Tu potresti anche confonderti tra gli zombie, no? Sei capace di fare lo zombie? Guarda che non è difficile, eh? Basta fare la faccia da bamba e tu ce l'hai già. La faccia da bamba, dico. Bamba? Hai della bamba? Ma no! Ma cosa ne sai tu della bamba, poi? Uè! Chi è che te l'ha parlato? Sei appena nato e già parli di bamba? Questa è una cosa che tu non conosci. La bamba è una cosa pericolosa. Eppure illegale. Non puoi mica usare la bamba come niente, eh? Sì, le fotomodelle la usano, ma tu no, eh? Hai capito? Tu devi mimetizzarti tra gli zombie e nessuno poi ti chiederà più niente. Il pulcino Joao è pregato di ritornare al suo posto. Ripeto, il pulcino Joao è pregato di ritornare al suo posto. Ma lo senti che ti stanno già cercando? Tu stai buono qui e ricorda, non mangiare. Ma io ho fame. Ma no! E comunque, meglio morire di fame che spennato e decapitato. Che cosa succederà adesso? Riuscirà il pulcino Joao a diventare così magro da essere scambiato per uno zombie? Non perdetevi la risposta domani alla stessa ora su Radio 3 con il prossimo anoressico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. barlumen.com La fabbrica di polli è trai.it.